Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Quarta parte. Contiene i consigli opportuni contro le tentazioni più correnti. Capitolo primo. Non bisogna lasciarsi scoraggiare dalle chiacchiere della gente. Appena la gente si accorgerà che hai deciso di seguire la vita devota, scoccherà contro di te mille frecciatine di compatimento e altrettanti dardi di pesante maldicenza. I più arrabbiati daranno al tuo cambiamento il nome di ipocrisia, bigotteria, tradimento. Diranno che il mondo ti ha voltato le spalle e allora ti sei consolata volgendoti a Dio. I tuoi amici poi, da parte loro, si affretteranno a sommergerti di rimproveri, tanto prudenti e pieni di carità a loro avviso. Sanno già che diventerai triste, perderai credito di fronte alla gente, sarai insopportabile, invecchierai prima del tempo. Le cose di casa tua andranno a rotoli. Ti ricorderanno che bisogna vivere nel mondo stando alle sue regole, che l'anima si può salvare anche senza tante storie e simili sciocchezze. Credimi, Filotea, sono tutte chiacchiere stupide, inutili. A quella brava gente non importa proprio niente, né della tua salute, né dei tuoi affari. Dice il Salvatore, se voi foste nel mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma siccome voi non siete del mondo, vi odia. Ho visto gentiluomini e dame passare intere notti di seguito a giocare agli scacchi e alle carte. Esiste forse un'occupazione più vuota, più triste, più massacrante di quella? Eppure la brava gente non mette parola. Gli amici non se ne sono minimamente preoccupati. Se invece noi facciamo un'ora di meditazione, oppure ci vedono alzarci al mattino un po' più presto del solito per prepararci alla Santa Comunione, tutti si precipitano dal medico per farci curare dallo stato ansioso, dall'itterizia. Passa 30 notti a ballare e nessuno troverà da ridire. Per la sola veglia della notte di Natale, il giorno dopo, chi ha la tosse e chi ha il mal di pancia. Chi non si accorge subito che il mondo è un giudice ingiusto? Gentile ed accomodante con i suoi figli, ma duro e senza pietà per i figli di Dio. Per andare a genio al mondo, noi dobbiamo andare a braccetto con lui. E poi non riesce ad accontentarlo, perché è matto. Dice il Salvatore, è venuto Giovanni che non mangia e non beve, e voi dite che ha il diavolo. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite che è un samaritano. È proprio vero, Filotea. Se per far piacere agli altri ci lasciamo andare a ridere e giocare, a ballare con la gente di mondo, il mondo ne sarà scandalizzato. E se non lo facciamo, ci accuserà di essere ipocriti, tristi. Se noi ci vestiamo bene, penserà che abbiamo motivo nascosto. E se invece andiamo alla buona, ci farà passare per gente senza educazione. la nostra allegria sarà per lui dissolutezza. La mortificazione sarà per lui tristezza. Ci guarda tanto di traverso che per quanto ci sforziamo non gli andiamo mai a genio. Le nostre imperfezioni le ingigantisce, le classifica a peccati. E i nostri peccati veniali li fa mortali. I nostri peccati di debolezza li cambia in peccati di malizia. Dovrebbe invece sapere che, come dice San Paolo, la carità è benigna. Il mondo, al contrario, è cattivo. Dovrebbe sapere anche che la carità non pensa male. Al contrario, il mondo pensa sempre male. E se proprio non gli riesce di accusare le nostre azioni, accusa le nostre intenzioni. Possiamo fare quello che vogliamo. Il mondo ci farà sempre guerra. Se ci fermiamo un po' davanti al confessore, si chiederà che cosa mai gli stiamo raccontando. E se invece ci sbrighiamo, dirà che sicuramente abbiamo taciuto la metà. Sorveglierà tutti i nostri movimenti e per un piccolo scatto di collera dirà che siamo insopportabili. La nostra cura degli affari la chiamerà avarizia, la nostra dolcezza stupidità. Quanto ai figli del mondo, la loro collera è sincerità, la loro avarizia è abilità amministrativa, la libertà che si prendono è franchezza. I ragni rovinano sempre l'opera delle api. Lasciamo perdere questo cieco, Filotea. Lascialo urlare finché non si stancherà, come fa il Barbagianni per spaventare gli uccelli del giorno. Restiamo fermi nei nostri propositi. Sarà la perseveranza a dimostrare che è sul serio, con sincerità, che siamo votati a Dio e incamminati nella vita devota. Le comete e i pianeti hanno apparentemente la stessa luminosità. Solo che le comete scompaiono in poco tempo, perché hanno solo una luminosità transitoria. I pianeti, invece, godono di una luce continua. Lo stesso si può dire dell'ipocrisia e della virtù. Esternamente si assomigliano molto, ma volendo si possono distinguere con sicurezza l'una dall'altra. L'ipocrisia non dura nel tempo, si scioglie come nebbia al sole, mentre la virtù autentica rimane stabile, costante. Non è un vantaggio da poco, per ben cominciare il cammino della devozione, ricevere calunnie. Evitiamo in tal modo il pericolo della vanità e dell'orgoglio, che sono come le levatrici d'Egitto, cui l'infernale faraone aveva dato l'ordine di uccidere i nati maschi di Israele il giorno stesso della nascita. Noi siamo crocifissi per il mondo, e il mondo è crocifisso per noi. Il mondo ci considera pazzi? E noi consideriamolo matto. Capitolo secondo. È necessario farsi coraggio. La luce, che pure è bella e desiderabile per i nostri occhi, li abbaglia quando sono stati per lungo tempo al buio. Prima di familiarizzarti con gli abitanti di un paese che non conosci, per quanto siano cortesi e premurosi, ti trovi per un po' di tempo disorientata. Similmente, Filotea, può capitare che a questo cambiamento di rotta della tua vita interiore tu rimanga seriamente sconvolta e questo addio totale alle follie, alle stupidità del mondo, ti causi qualche momento di sofferta tristezza, di scoraggiamento. Se dovessi trovarti realmente in una simile situazione, abbi un po' di pazienza. Vedrai, non è nulla. Si tratta solo di un po' di disorientamento di fronte alla novità. E quando questo momento sarà passato, avrai consolazioni a non finire. Sulle prime è facile che ti dispiaccia essere privata della gloria di cui gli sciocchi e gli adulatori ti circondavano nella tua vanità. Ma sul serio, vorresti perdere quella eterna che il Signore ti darà sulla sua parola di verità? I vuoti divertimenti e i passatempi ai quali hai sacrificato gli anni passati, ti torneranno alla mente, per adescare il cuore, riprenderselo. Ma come potresti avere il coraggio di rinunciare ad una felicità eterna per leggerezze così ingannevoli? Credi a me, se sarai perseverante, non passerà molto tempo che sarai ricolma di dolcezze così deliziose e piacevoli, fatti di autentico miele, che dovrai ammettere che il mondo ha solo fiele a confronto. Un solo giorno di devozione vale più di 1000 anni di vita di mondo. Capitolo terzo. La natura delle tentazioni e la differenza tra sentire la tentazione e da consentire ad essa. Immagina, Filotea, una giovane principessa molto amata dal suo sposo. Pensa ora che qualcuno malintenzionato, per trascinarla a disonorare il letto nuziale, le invii un infame messaggio di amore per portare avanti con lei il suo esecrando disegno. Per prima cosa il messaggero propone alla principessa l'intenzione del suo padrone. In un secondo momento la principessa trova piacevole o ripugnante la proposta e la stessa ambasceria. In terzo luogo dice di sì o dice di no. Allo stesso modo, Satana, il mondo e la carne, vedendo un'anima sposa al figlio di Dio, le mandano tentazioni e suggerimenti con i quali, primo, il peccato viene proposto. Secondo, a quella proposta prova piacere o prova dispiacere. Terzo, acconsente o rifiuta. I gradini per scendere al male sono 3. La tentazione, la dilettazione, il consenso. È vero che questi 3 momenti non sempre è facile distinguerli chiaramente in ogni genere di peccato, ma sono molto evidenti, distinti concretamente nei peccati di chiara gravità. Anche se la tentazione ad un peccato ci tormentasse tutta la vita, non potrebbe renderci sgraditi alla Divina Maestà. L'essenziale è che non ci piaccia e che non acconsentiamo. Il motivo è che nella tentazione noi non siamo attivi, ma passivi, e siccome non proviamo alcun piacere, non possiamo essere colpevoli. San Paolo sofferse lungamente le tentazioni della carne, e non per questo dispiaceva a Dio. Anzi, Dio era glorificato nelle tentazioni. La beata Angela da Foligno provava tentazioni carnali così crudeli che solo al racconto si prova compassione per lei. Anche le tentazioni patite da San Benedetto e San Francesco, allorché uno si gettò nella neve e l'altro nelle spine per mitigarle, erano terribili. Ma non per questo persero la grazia di Dio. Anzi, la grazia in essi aumentò. Devi essere molto coraggiosa, Filotea, quando sei afflitta da tentazioni. E non sentirti mai vinta finché ti disgustano. Tieni sempre presente la differenza che c'è tra sentire e acconsentire. È possibile sentirle pur continuando a provarne dispiacere. Ma invece non è possibile acconsentire senza provare piacere in esse. E il motivo è presto detto, il piacere è il gradino al consenso. I nostri nemici possono presentarci tutti gli inviti e le esche che vogliono, possono piazzarsi sulla soglia della porta del nostro cuore cercando di entrare, possono farci tutte le promesse immaginabili. Finché da parte nostra saremo decisi a rifiutare, non è possibile che offendiamo Dio. Ricorda l'esempio della principessa. Il principe sposo non può incolparla del messaggio che le è stato inviato, se ella non si è compiaciuta. Tuttavia, tra l'anima e quella principessa c'è una differenza. La principessa, dopo aver ricevuto la proposta peccaminosa, se lo vuole, può cacciare il messaggero e non più ascoltarlo. Mentre non è sempre in potere dell'anima non continuare a provare la tentazione, anche se è in suo potere non acconsentire. Ecco perché se la tentazione persiste e rimane a lungo, non può nuocerci finché la troviamo disgustosa. Quanto alla dilettazione che può seguire la tentazione, siccome abbiamo due parti nell'anima, una inferiore e l'altra superiore, e visto anche che l'inferiore non sempre segue la superiore, anzi se ne mantiene indipendente, può capitare spesso che la parte inferiore si compiaccia nella tentazione, senza il consenso, anzi contro il gradimento della parte superiore. È questa la lotta e la guerra descritta da San Paolo, quando dice che la sua carne brama contro il suo spirito, che c'è una legge delle membra e una dello spirito, e altre cose simili. Hai mai visto, Filotea, un grande braciere con il fuoco coperto sotto la cenere? Quando 10-12 ore dopo vieni per cercare il fuoco, ne trovi solo un po' nel mezzo e si fatica a trovarlo. Tuttavia c'era, visto che si può trovare. E con quello si possono riaccendere tutti gli altri carboni spenti. La stessa cosa avviene della carità, che è la nostra vita spirituale, soffocata da grandi e violente tentazioni. La tentazione provoca la dilettazione della parte inferiore e può dare l'impressione di coprire tutta l'anima di cenere e ridurre l'amore di Dio allo stremo, perché non si trova più da nessuna parte, meno che al centro del cuore, nascosto in fondo allo spirito. Sembra proprio che non ci sia più e si fatica a trovarlo. Eppure c'è, e c'è sul serio, perché anche se tutto è torbido della nostra anima, tutto è torbido nel nostro corpo, noi abbiamo fatto il proposito di non acconsentire al peccato e nemmeno alla tentazione. La dilettazione che piace al nostro uomo esteriore dispiace a quello interiore. E anche se circonda da ogni parte la nostra volontà, l'importante è che non sia entrata in essa. Da ciò appare evidente che si tratta di una dilettazione involontaria e quindi che non può essere peccato. Stupenda è la storia del combattimento di Santa Caterina da Siena, sempre sullo stesso tema. Eccola in breve. Lo spirito maligno aveva avuto licenza da Dio di attaccare la castità di quella santa vergine con tutta la rabbia che voleva, purché non la toccasse. Si mise dunque all'opera, insinuandole nel cuore ogni sorta di oscenità. E per creare in lei un'emozione ancora più forte, le si presentò con i suoi diavoli in sembianza di uomini e donne, che si esibivano davanti a lei in ogni genere di oscenità e di sconcezze, aggiungendo parole in vite indecenti. Benché tutte quelle manifestazioni fossero esteriori, ciò non di meno, per mezzo dei sensi, penetravano molto profondamente nel cuore della giovane donna. Il cuore ne era saturo. Libera da questa tormenta di oscenità e di piaceri carnali, le rimaneva solo la sottile e pura volontà superiore. Questo durò per molto tempo, finché un giorno le apparve Nostro Signore. Gli chiese subito: «Mio dolce Signore, dov'eri quando il mio cuore era così pieno di tenebre e di brutture?» Rispose il Signore: «Figlia mia, mi trovavo nel tuo cuore.» Lei replicò: «E come potevi abitare nel mio cuore, dove c'erano tante oscenità? Tu abiti luoghi così malfamati.» le rispose Nostro Signore. Dimmi un po', quegli sporchi pensieri del tuo cuore ti davano piacere o tristezza, amarezza o diletto? Lei disse, grande amarezza e tristezza, Signore. Il Signore riprese, e chi era a mettere quella grande tristezza e amarezza nel tuo cuore, se non io, che mi tenevo nascosto nel profondo della tua anima? Credimi, figlia mia, se io non fossi stato presente, quei pensieri che premevano intorno alla tua volontà senza poterla piegare, senza di me l'avrebbero vinta e vi sarebbero penetrati. Il tuo libero arbitrio li avrebbe accolti con piacere e così avrebbero dato morte alla tua anima. Ma siccome dentro c'ero io, inculcavo disgusto e resistenza al tuo cuore, di modo che con tutte le forze non cedesse alla tentazione. Non potendo annientare la tentazione come avrebbe voluto, provava disgusto ancora maggiore, un odio profondo contro di lei e contro se stessa. E così quei tormenti erano un grande merito, una grande vittoria per te, una grande crescita della tua virtù e della tua forza. Vedi bene, Filotea, quanto quel fuoco fosse nascosto sotto la cenere e la tentazione e il diletto fossero penetrati nel cuore e avessero assediato la volontà, che sola, sostenuta dal suo Salvatore, resisteva nelle amarezze, nei tormenti. Rimanendo salda nel rifiuto del male che le veniva proposto, rifiutando costantemente il consenso al peccato che la opprimeva da ogni parte. Quale sconforto per un'anima che ama Dio non sapere nemmeno se Egli è in lei o meno. E se l'amore divino per il quale lotta è completamente spento in essa oppure no. Ma è l'apice della perfezione dell'amore far soffrire e lottare l'amante per amore, senza sapere se possiede quell'amore per il quale e per mezzo del quale lotta. Incoraggiamento dell'anima che si trova nelle tentazioni. Cara Filotea, quei terribili attacchi e quelle tentazioni così forti sono permesse da Dio solo contro le anime che Egli ha deciso di innalzare al suo meraviglioso e ineguagliabile amore. Ma non per questo, superato l'ostacolo, hanno la certezza di giungervi. È capitato parecchie volte che quelli che erano rimasti saldi di fronte a quei violenti attacchi non abbiano poi corrisposto al favore di Dio. E così, in seguito, sono caduti nella trappola di tentazioni da nulla. Dico questo perché se dovesse capitarti di essere tormentata da una tentazione molto forte, sappi che Dio vuole favorirti in modo tutto speciale e renderti più grande al suo cospetto. Ciò nonostante devi rimanere umile, guardinga. Non illuderti di poter vincere le piccole tentazioni solo perché hai vinto le grandi. Se dunque ti capita di provare qualche tentazione e anche il piacere che ne consegue, mentre la volontà rifiuta il proprio consenso, sia alla tentazione che al piacere che l'accompagna, non turbarti minimamente, perché Dio non è offeso. Quando un uomo è svenuto e non dà più alcun segno di vita, gli si posa la mano sul cuore e per tenue che sia il battito, se ne conclude che è vivo. E con l'aiuto di qualche sostanza medicamentosa o qualche impacco, gli si fanno riprendere le forze e i sentimenti. Allo stesso modo, capita qualche volta che, per la violenza delle tentazioni, sembra che la nostra anima sia stata completamente abbandonata dalle proprie forze, e, come fosse svenuta, sembra non dare più segni di vita spirituale e di movimento. Se vogliamo sincerarci di come stiano esattamente le cose, mettiamole la mano sul cuore. Se il cuore e la volontà spiritualmente pulsano ancora, ossia se sono fedeli nel rifiutare e consentire a seguire la tentazione del piacere, nessun timore. Finché nel nostro cuore c'è il movimento del rifiuto, stiamo pur certi che la carità, vita delle nostre anime, vive in noi. E Gesù Cristo, nostro Salvatore, dimora nelle nostre anime, anche se nascosto in un angolo. E così, con l'esercizio assiduo dell'orazione, dei sacramenti e della fiducia in Dio, le nostre forze ritorneranno, e con esse la nostra vita piena e piacevole. Rimedi per le tentazioni gravi. Appena avverti in te qualche tentazione, fa come i bambini quando scorgono il lupo o l'orso in campagna. Si precipitano immediatamente tra le braccia del papà o della mamma e, se non possono fare altro, strillano chiamandoli in aiuto. Similmente, ricorri a Dio, chiedendogli la sua misericordia, il suo aiuto. È il rimedio che ci insegna nostro Signore. Pregate per non entrare in tentazione. Se nonostante tutto la tentazione insiste e si accresce, in spirito corri ad abbracciare la Santa Croce, come se tu vedessi realmente davanti a te Gesù crocifisso. E protesta che non cederai mai alla tentazione, chiedigli aiuto contro la stessa. Finché la tentazione rimarrà, tu insisti nel protestare che mai cederai. Mentre fai queste proteste e insisti nel negare il tuo consenso, non guardare in faccia la tentazione. Guarda solo nostro Signore. Se tu dovessi guardare la tentazione, soprattutto nei momenti di maggiore intensità, il tuo coraggio potrebbe anche vacillare. Distrai il tuo spirito con qualche occupazione buona e lodevole. Tali occupazioni entreranno nel tuo cuore, lo occuperanno e così elimineranno le perverse suggestioni del maligno. Il rimedio sicuro contro tutte le tentazioni, grandi e piccole, è quello di aprire il proprio cuore e di dire tutto quello che ci tormenta al nostro direttore spirituale. Le tentazioni, le nostre reazioni, gli affetti. La prima condizione che il maligno impone all'anima che vuole sedurre è il silenzio. Esattamente come fanno quegli uomini che tentano di sedurre le donne e le ragazze. Per prima cosa impongono loro di non farne parola con i papà e con i mariti. Ma tutto diverso è il modo di agire di Dio. Nelle sue ispirazioni ci chiede di farlo sapere subito a chi ha la nostra responsabilità, ai direttori spirituali. Che se poi, dopo tutto ciò, la tentazione si ostina a tormentarci, a perseguitarci, ci resta solo di ostinarci, anche da parte nostra, nel protestare di non voler consentire. Perché come le ragazze non possono essere date a marito finché dicono di no, così l'anima, per quanto turbata, non sarà ferita finché dice di no. Non discutere con il nemico, non dargli una sola parola di risposta, tranne quella con la quale lo fece stare zitto nostro Signore. Vai indietro, Satana, tu adorerai il Signore tuo Dio e solo a Lui servirai. La donna casta non deve rispondere una sola parola, non deve guardare in faccia lo spasimante tanto volgare che ha usato farle proposte disoneste. Lo deve piantare in asso su due piedi e all'istante rivolgere il cuore al proprio sposo, rinnovare il giuramento di fedeltà a lui promesso, senza perdere tempo in tentennamenti, Allo stesso modo, l'anima devota, vedendosi attaccata da qualche tentazione, non deve perdere tempo a discutere, a rispondere, ma volgersi a Cristo Gesù, suo sposo, rinnovargli la sua fedeltà e la promessa di appartenergli sempre. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.